Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno a tutti i radioascoltatori che in questo momento si sono messi sintonizzati sulle nostre frequenze, ma vi do anche, perché no, l'indirizzo internet, oppure se volete potete scrivere su Facebook, mandateci i vostri messaggi, inviateci un sms al 355-5637-251. Oppure potete cliccare su www.crmradio.it e lì potete seguirci anche in diretta. Un buongiorno al nostro Simone. Ah, finalmente ho azzeccato il nome. Fiat Voluntas Day. Simone Brancato alla parte tecnica, alla regia. Un ringraziamento naturalmente a tutti gli sponsor come sempre che si adoperano affinché questo programma possa continuare a vivere e a dare delle informazioni, io spero, interessanti per quanto attiene l'informazione appunto. Una prima parte di questo programma verrà dedicato quasi come spesso capita alla medicina, parleremo di tumori al seno, lo so è un momento critico per l'economia, ma la salute comunque va comunque sempre salvaguardata. Ne parleremo con uno dei più grandi esponenti, il massimo esponente che abbiamo in Sicilia, che è il dottor Ildebrando D'Angelo, è il referente clinico in questo momento della Breast Unit, sarebbe questo pool di professionisti della medicina e della farmacologia del San Raffaele di Milano, di concerto con alcuni specialisti del San Raffaele Giglio di Cefalù. Il dottor D'Angelo è un radiologo oncologo e segue da vicino con tanta umanità, con tanta deontologia professionale i propri pazienti, che in questo caso, trattandosi di seno, anche se spesso, cioè molto di rado, viene colpito anche l'uomo al seno, ma nel 90% dei casi è una patologia che colpisce soprattutto le donne. Tra pochi minuti l'avremo in diretta radiofonica e quindi parleremo di questo problema, di questa tematica inficiante per quanto attiene l'aspetto estetico ma anche psicologico delle donne. Provate a immaginare una persona donna che viene colpita malauguratamente al seno da un male di questo genere, se preso per tempo si può salvare sia la parte mammaria che la parte psicologica, perché se tu decurti una mammella a una donna è chiaro che viene a mancare una parte importante anatomica, ma anche sotto il profilo voglio dire dell'aspetto fisico, l'estetica, ecco, viene a mancare l'estetica a una donna che è abituata a vedersi in un certo modo, chiaramente è una parte di sé che va via e questo va a incidere non in maniera lieve sull'aspetto psicologico della paziente. Di tutto questo ne parleremo, dicevo, tra pochi minuti con il dottor Ildebrando D'Angelo, che è in questo momento il referente a carico del referente clinico della Breast Unit ed è un radiologo oncologo, ne avete spesso sentito parlare, abbiamo fatto anche di concerto con noi dei simposi per spiegare alle donne come si fa la prevenzione e in cosa si sta evolvendo la parte clinica e farmacologica nei confronti di questo male e come affrontare il male quando purtroppo, ahimè, colpisce. Detto questo ci fermiamo per un secondo perché desidero salutare i nostri sponsor, vi saluto subito con il primo sponsor, tra poco è ora di pranzo e vi invito ad andare a mangiare al ristorante Sapori di Mare a via Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese, lì troverete oltre alla ristorazione tutta a base di pesce rigorosamente, ma potete anche acquistare frutti di mare, ricci, crostacei, anche cotti perché fanno catering e poi naturalmente frutti di mare e crostacei, servizio catering incluso, avete tutto quello che vi serve per fare un ottimo pranzo, un'ottima cena, tutto a base di pesce e che pesce ragazzi, quindi ricordatevi il ristorante Sapori di Mare di Belleville Santo, via Cristoforo Colombo 8 bis Termini Imerese, telefono per le vostre prenotazioni, se volete che vi prepari un sughetto con i frutti di mare, se volete che vi prepari un primo, un secondo da portare anche via, da asportare e portare a casa vostra, 091 81 11 447. Andiamo ancora avanti con un altro sponsor, la 2M è simbolo di porte di un certo livello, però qui bisogna veramente prenotare prima di raggiungere questa azienda a Castelbuono perché sono operatissimi di lavoro, questo significa che mettono qualità e tecnica in quello che fanno. Dunque l'esposizione in via Cavour 74, la produzione in via Contrada San Calogero, sempre a Castelbuono in provincia di Palermo. I numeri sono i seguenti, ve li do: 333 13 68 016 oppure 338 85 15 448. Porte, una vastissima gamma di porte d'interni, di ciliegio, di palissandro, ma di tantissime altre qualità di legno. Poi le porte in rovere massiccio, pensate, sono a 600 euro più incluso il montaggio, ma io vi pregherei di recarvi presso lo showroom o presso l'azienda telefonando, vi ricordo, prima, perché bisogna prenotare, oppure le porte fuori misura, quindi troverete tutto quello che vi interessa. Se volete poi farvi fare una cucina su misura, una stanza da letto su misura, quello che insomma vi gusta far vedere crescere sotto i vostri occhi, secondo i vostri gusti, senza che sia stato programmato prima dal punto di vista industriale, beh, non dovete fare altro che andare al 2M Porte che Arredano. Troverete poi, tra l'altro, un ampissimo e vasto assortimento di maniglie appunto per le porte. Vi ricordo l'indirizzo: lo showroom in via Cavour 74, la produzione in invece Contrada San Calogero, sempre rigorosamente a Castelbuono. Detto questo, noi ci fermiamo un secondo, andiamo in linea alla regia per una breve pausa musicale. Al rientro Ildebrando D'Angelo, parleremo di carcinoma al seno. Cerchi riparo fraterno, conforto, tendi le braccia allo specchio, muovi a stento e con sguardo severo, biascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove. Sono lacrime mentre piove, piove. Sono lacrime mentre piove. Dopo l'ingrata tempesta, riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove. Thank you. pause, la pausa della musica, perché abbiamo in diretta un personaggio, insomma, che aiuta e ha aiutato tantissimo le donne, perché lui è un ricercatore, un medico che si occupa prevalentemente di oncologia, ma di oncologia non soltanto a 360 gradi, ma soprattutto nei confronti del seno, della parte mammaria del corpo, dell'anatomia del corpo della donna. Stiamo parlando di carcinoma al seno, ne parliamo con il dottor Ildebrando D'Angelo, che assolutamente ringrazio per aver accettato l'invito in trasmissione. Dottor D'Angelo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. La ringrazio. In questo momento la ringrazio per la laurea honoris causa. No, dico, lei è troppo buono sempre. Allora, visto che ci diamo del tu al di fuori dei programmi radiotelevisivi, diamoci del tu anche qui. Allora, sono passati circa 2 anni da quando ci incontrammo, ti ricordi, facemmo a Castelbuono il primo simposio sul carcinoma al seno con il gruppo che tu oggi stai un po', sei il referente di questo gruppo, referente clinico della Breast Unit. Ho spiegato ai radioascoltatori che si tratta di un pool di specialisti, ognuno nel proprio settore, che tutti quanti insieme poi contribuite al debellamento o quantomeno all'alleviamento delle sofferenze delle donne quando vengono colpite di questa patologia del carcinoma al seno. Da quel giorno, Ildebrando, quante cose o cosa è cambiato in meglio, spero, nella ricerca scientifica a favore delle donne e di questo male che li colpisce? Ma sicuramente la scienza va avanti, la tecnica va avanti, va avanti soprattutto la maggiore sensibilità sia a livello medico che a livello umanistico relativamente alla problematica del tumore al seno. Per cui c'è molta più consapevolezza e soprattutto quel seme che nel lontano 2008 con il dottore Marassi abbiamo gettato nel tentativo appunto di far sì che l'ospedale di Cefalù, di San Raffaele Giglio, potesse essere punto di riferimento per la nostra popolazione femminile, adesso quel seme è diventato molto più produttivo, c'è una bella pianta che sta crescendo e sta dando i suoi frutti. Oggi il San Raffaele Giglio si pone come riferimento non soltanto per le donne del nostro territorio, della nostra circoscrizione, ma oramai è un riferimento costante per le donne che provengono anche dalle province di Caltanissetta, Agrigento, Palermo e perché no anche Trapani. Quindi non c'è più, per fortuna, o almeno in parte si è ridotto questo flusso, no, di migrazione verso altre intelligenze mediche all'estero, o meglio per Nord Italia. Ci si ferma un po' più nella nostra regione, perché qui riusciamo ad avere un'eccellenza, diciamola così, parimenti a quelle che possiamo trovare all'estero o al Nord Italia. Dico bene, D'Angelo? Sicuramente, anzi, dirò di più, con molta soddisfazione notiamo che sempre più frequentemente quelle donne che con atteggiamento assolutamente condivisibile, perché la salute è ovviamente un bene prezioso e irrinunciabile, si recano anche altrove per avere dei consulti o comunque una consolazione sul percorso e sulle scelte diagnostiche e terapeutiche, ritornano poi perché altrove i centri più accreditati dicono che qua possono avere la stessa efficacia, la stessa garanzia di trattamento che riceverebbero altrove. Quindi questo ci permette di poter affrontare con maggiore soddisfazione e maggiore determinazione anche questo tipo di problematiche. È chiaro che non tutto è facile, non tutto è scontato, per cui ci scontriamo costantemente con quelle difficoltà anche economiche che purtroppo attanagliano non soltanto la sanità ma un po' tutto, e quindi i conti sono anche conti economici, e quindi cerchiamo sempre di andare incontro a queste problematiche, ma in questo senso devo dire che la nostra direzione generale sanitaria e anche la Presidenza stanno dalla nostra parte, per cui stanno combattendo al nostro fianco nel tentativo appunto di dissipare queste difficoltà che via via si creano. E ahimè, purtroppo non sono soltanto italiane o meridionali, ma sono cosmopolite. L'economia va male un po' dappertutto. Restiamo nell'ambito della medicina e della ricerca scientifica, ci sono stati quindi dei passi avanti, ma la domanda mi sorge spontanea: secondo te, secondo quello che tu hai acquisito in questi anni come esperienza di medico, di ricercatore, quali sono le cause o alcune cause, non possiamo certo identificarle tutte, che scatenano questo famigerato carcinoma al seno? le cause sono bene o male oramai note da tempo e sono, non è una causa, ma il processo del tumore alla mammella è un processo multifattoriale, per cui la situazione ormonale sicuramente è chiamata in ballo per prima come elemento preponderante, ma anche influenze virali, influenze cancerogenetiche ambientali sono sicuramente altrettanto importanti, come anche gli elementi dietetici. Sai benissimo che il ruolo di una dieta ricca di grassi e di fibre o povera di fibre è altrettanto importante nel determinismo appunto della problematica mammaria. Ci sono poi cause genetiche che determinano molto spesso allarmismo, a volte immotivato nella donna, perché non è infrequente purtroppo venire ad arrivare ai nostri ambulatori una donna che riferisce ed è preoccupata perché una sua cugina o una sua lontana zia ha avuto il tumore al seno e quindi ritiene di avere un rischio aumentato rispetto ad altre donne. C'è questo rischio? Sicuramente una familiarità va presa in considerazione, ma diverso è il caso in cui nell'ambito della stessa linea familiare, nel primo grado, noi abbiamo la sorella, la mamma, la nonna, col tumore alla mammella. Quello è diciamo un settore un pochettino più importante ed è preventivabile o presumibile che ci sia un interesse metagenetico, e l'incidenza del tumore alla mammella in questa situazione è molto più aumentata, molto più alta rispetto a quella che può essere una semplice familiarità. Ho capito. Io prima di lasciarti un altro paio di domande devo fartene. La prima è questa: da quale età la donna deve cominciare, in quale età soprattutto la donna deve incominciare a mettere mani, a fare gli screening semestrali o annuali per prevenire eventualmente un attacco del male, di questa patologia? Ma sicuramente mi rifaccio a quelle che sono un po' le linee guida internazionali. Diciamo che oggi chiaramente ognuno di noi, uomo o donna, deve comunque avere una piena consapevolezza del proprio corpo e quindi essere capace di cogliere quelle differenze che possono poi essere valutate in maniera importante dal medico, dallo specialista. Si raccomanda in genere che sotto i 40 anni, o meglio si dice che sotto i 40 anni non c'è la necessità di un controllo periodico programmato, tranne che il controllo autopalpatorio, quindi quello autoriferito dalla donna. Questo in condizione assolutamente di asintomaticità e soprattutto di rischio normale. Tutto il discorso cambia ovviamente qualora c'è un rischio aumentato per una familiarità o per una componente genetica, oppure perché c'è ad esempio una stimolazione ormonale molto esagerata nel tempo, o per pregresse patologie mammarie a rischio precedente antitrogenti. Comunque, trattando in linea generale la donna asintomatica, diciamo che dai 40 anni si incomincia con il controllo mammografico, ecografico e clinico con cadenza annuale, sino a menopausa. Alla menopausa questo intervallo diventa un intervallo biennale per quanto riguarda la mammografia, mentre l'esame clinico può essere fatto annualmente o comunque sicuramente. Questo perché vengono a mancare gli ormoni mestruali, dico bene? Sicuramente, perché chiaramente con la carenza della stimolazione ormonale la densità radiologica diventa minore e quindi diventa molto più leggibile la mammografia, e quindi il valore di un esame negativo è sicuramente più duraturo nel tempo, e soprattutto anche perché con l'aumentare dell'età, ecco, questa è una cosa che mi preme sottolineare, con l'aumento dell'età il tumore aumenta la sua incidenza. Non è assolutamente vero che man mano che invecchiamo diventa minore la possibilità del tumore, anzi proprio il contrario, ma è chiaramente legato il diradarsi dei controlli è legato anche ad una minore velocità di crescita del tumore, per cui i controlli non sono più così strettamente cadenzati e sulla cadenza annuale. Permettimi di dire una cosa in prego, più. Prego. Visto che siamo in argomento, soprattutto in argomento di terapia, noi altri abbiamo l'anno scorso effettuato 6 trattamenti radioterapici con la IORT, con la radioterapia intraoperatoria, e 2 trattamenti di elettrochimioterapia. Sono trattamenti abbastanza innovativi, soprattutto quest'ultimo, che ci hanno permesso di distinguerci nel panorama della sanità regionale, proprio perché sono pochi i centri che espletano questo tipo di trattamento. La radioterapia intraoperatoria è una tecnica, una attrezzatura che noi altri abbiamo, e stiamo in questi giorni cercando di perfezionare proprio i percorsi in modo da poterlo far decollare in maniera standardizzata e non sporadica, occasionale, come ha fatto sino adesso. Proprio in quest'ottica siamo insieme alla nostra dirigenza sanitaria generale cercando di trovare gli agganci opportuni per poter far sì che questi trattamenti radioterapici, che si traducono poi in un una migliore compliance della paziente, perché per essere molto stringente una radioterapia intraoperatoria permette in unica seduta intraoperatoria di poter svolgere quelle che poi sono le 15-20 sedute esterne effettuate presso un centro di radioterapia esterno. Ti fermo per sei stato molto esaustivo, spero. Purtroppo abbiamo un problema tecnico, nel senso che quando si parla con i telefonini si è fuori, la percezione e la recezione non è eccezionale, però penso che il messaggio sia arrivato e stiamo dando delle informazioni precise, quindi la prevenzione e l'autotastazione, l'autopalparsi, no? Sotto la doccia, magari per capire se sono dei noduli sottocutanei che al tatto si possono sentire. Questo è quello che tu hai detto ed è un primo sistema che uno può avere sul suo corpo per capire se ci sono degli allarmi in arrivo o no. Assolutamente sì. Ecco, io prima di dare la parola a te, prima di fare questa chiacchierata con te, ho detto fuori onda che è sicuramente sotto il profilo psicologico un trauma per una donna quando arriva troppo tardi, ahimè, e non si può far nulla con la chemio o la radio, a meno agli inizi, per debellare il male, ma bisogna intervenire chirurgicamente. L'asportazione di parte parziale o totale di una mammella comporta psicologicamente un contraccolpo non indifferente nella donna. A questo proposito, cosa ti senti di dire alle donne? Questo mi permette di dire che presso la nostra Breast Unit del San Pregiglio abbiamo una competenza psico-oncologica molto valida, molto importante, che è garantita dai nostri colleghi dottor Rotondo e dottore Castelnuovo, che permettono proprio il supporto psicologico alla donna sia nella fase della comunicazione a diagnosi, nella fase pre-trattamento chirurgico, nella fase post-trattamento chirurgico e soprattutto nella fase poi di preparazione all'eventuale trattamento chemioterapico e in corso di chemioterapia. È un'assistenza che è molto importante per le donne e le donne la ritengono assolutamente valida per poter permetterlo di superare questo momento terribile della loro vita e soprattutto nel tentativo di ricostruire quell'integrità psicofisica che è fondamentale per la nostra salute. Un'ultimissima domanda, Ildebrando, ti volevo chiedere, a parte la dieta mediterranea, che come sempre, insomma, io credo che sia il numero uno per quanto attiene l'arte del cibarsi nel mondo e che potrebbe allontanare eventualmente un insorgere continuo di questi tumori in senso generale, nel particolare il tumore al seno, ne facevi cenno prima tu, ma al di fuori del discorso dell'ambiente dove si vive, di quello che si respira, io credo che le donne di oggi abbiano una maggiore incidenza di carcinoma al seno, anche, credo, poi posso sbagliarmi, perché hanno preso un aspetto negativo degli uomini, cioè il fumare. Oggi fumano molto più donne che non 20 anni fa. Questo secondo te incide? Allora, questo per quanto riguarda il tumore alla mammella non è stato ancora dimostrato, non è stato accertato, per cui chiaramente il fumo è un elemento nocivo per la nostra salute ed è capace di determinare molte patologie neoplastiche. Per quanto riguarda il tumore alla mammella no. Forse è più importante il discorso stress, per cui il nostro vivere quotidiano è molto stressante, anche nell'ambito della donna, porta ad un disorientamento delle nostre difese immunitarie, per cui anche in quest'ottica un eventuale insulto nocivo può trovare un campo più fecondo e più fattibile in una persona stressata piuttosto che non. D'Angelo, dove si devono rivolgere le donne del comprensorio, quello delle Madonie, ma anche tutta la Sicilia in questo caso, e come si possono attivare per avere uno screening, un check-up, per essere più tranquille e affrontare l'indomani con più serenità? Sicuramente possono fare le nostre donne riferimento a due situazioni. La prima è quella di un progetto di screening regionale che ormai anche la Sicilia ha attivato, per cui le donne dai 50 ai 69 anni vengono chiamate con cadenza biennale per fare le mammografie e questi sono progetti che vengono attivati sul territorio. Per quanto riguarda invece la nostra Breast Unit, sicuramente tramite i medici curanti loro possono rivolgersi direttamente alla Breast Unit e trovare l'attenzione che necessita. Ildebrando, io mi fermo qui, ti fermo qui, ti lascio al tuo lavoro e ringraziandoti come sempre per la tua grande... Per la sensibilità sempre mostrata e un saluto per tutti i nostri ascoltatori. Io ti ringrazio di quello che tu hai detto a me, ma lasciami dire quello che devo dire su di te e sul gruppo con il quale tu operi e collabori, perché siete persone straordinarie, siete persone sensibili, ma soprattutto siete seri professionisti e professionisti pieni di tanta umanità. E questo nessuno ve lo può togliere. Buon lavoro e cercate sempre di debellare quanto vi è possibile questo male che naturalmente attenaglia quello che è l'aspetto più bello bello della nostra vita, le nostre mamme, le nostre mogli, le nostre figlie. Grazie ancora a voi. Auguri, auguri. Ciao. Grazie auguri anche a te. Allora, prima di dare la linea alla regia per una pausa musicale, io devo ringraziare il Piscitello Prezioso in via Corso Umberto 1 a Gangi, telefono 0921 644 327 oppure www.piscitellopreziosi.com. Gioielleria, per esempio, per la gioielleria abbiamo i solitari, firmati con Cometa Gioielli, Nardelli, Donna Oro. Per quanto attiene gli orologi, poi ragazzi, c'è veramente da sbizzarrirsi, Sector, Philip Watch e Bresson, che sono delle firme anche queste molto prestigiose, oppure prodotti di acciaio in orologi. Abbiamo la Gus Nomination, Alviero Martini, oppure Roberto Cavalli. Naturalmente, per quanto attiene la casa, ci sono delle linee di capezzali in olio su tela. Vi raccomando, Piscitello Preziosi, via Corso Umberto 1 a Gangi, vi ripeto il numero 0921 644 327. I solitari sono qualcosa che dovreste regalare in questo periodo alle vostre donne, ma anche, anche un bel orologio, per esempio un bel Bresson, perché no? Regalatelo grazie a Piscitello Preziosi e grazie alla vostra intelligenza. Poi, se volete passare un sabato o un venerdì, una domenica in tutto relax, fatelo al Disco Pub al Texano, Castelbuono, via Abruzzo numero 10, musica dal vivo e naturalmente panini, tartine, tutto quello che vi serve. C'è anche una sala, il poker online, dove potete passare ore di tranquillità e assoluto relax. Se volete invece sentire la musica dal vivo, beh, il Disco Pub al Texano è il number one a Castelbuono. Allora, chi si è fatto il capodanno in questa struttura sa di cosa sto parlando. Sto parlando della perla di Enju, Park Hotel Sara, ricevimenti a 4 stelle, cucina nazionale, internazionale, regionale, 60 e passa stanze, quindi vi possono ospitare tutti quanti. Un parco verde dentro le Madonie, a due passi da Gangi, che è veramente un albero di Natale se lo vedete illuminato di notte. Quindi sto parlando di una struttura stile Liberty che vi consentirà di godere dell'occhio ma anche del palato, e andate a rilassarvi un weekend in tutta serenità alla perla di Enju, Park Hotel Sala Ricevimenti o Sala Congressi, se volete, a Gangi. Linea d'energia, breve pausa musicale, al rientro un altro ospite. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh. Oh, life, oh, life. 12:45 minuti al nostro Watch, rigorosamente in diretta carta e penne, studio Filippo Glorioso, alla console come sempre Simone Brancato, che ci guida alla parte tecnica, senza il quale io non potrei parlarvi. Allora, vi ricordo il numero telefonico 0921 423 456, potete scriverci anche su Facebook se volete, e i contatti dovete farli con CRM Happy Radio, quindi ci trovate lì, e poi invece sul sito, se volete ascoltarci anche in diretta e vederci in diretta, potete farlo su www.crmpiredio.it. Detto questo, secondo appuntamento di questa giornata, giovedì 5 mi pare, se non erro, sì, 5 mi conferma Simone, 5 di gennaio, e anche questo mese tra poco volerà via, e insomma gli anni passano e chissà cosa ci riserverà il futuro, boh, punto interrogativo. Fox parla bene dei vari segni zodiacali, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Molto fortunati quest'anno i Cancro, e anche i Toro non siamo da meno. Vedi, lui Simone fa così con le braccia. Allora, dicevo, secondo personaggio importante abbiamo in trasmissione, qualche anno fa l'abbiamo avuto in diretta radiofonica, sto parlando del professor Mannino, che è il presidente del Parlamento della Legalità. Professor Mannino, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Intanto grazie per aver accettato l'invito, lei è squisitissimo come sempre. Allora, noi siamo passati da un'informazione sul carcinoma mammario con uno specialista che va per la maggiore in Sicilia e non solo, con il dottor Ildebrando D'Angelo, ma adesso vogliamo toccare un altro tumore che sta un po' attraversando in maniera trasversale tutta l'Italia, e parliamo di questa insanissima politica. Cosa sta succedendo, professore, secondo lei? Ma guardi, io peraltro mentre andiamo in diretta, io sono a Roma e sono a pochi passi da Montecitorio. Ah, ecco. E quindi le dico che l'aria che si respira non è delle migliori, vedo la gente impaurita che vede crollare quelle che sono state le loro certezze, e in modo particolare disorientati sono i giovani che cercano non tanto la paura di una crisi, ma cercano una realtà occupazionale che realmente diventa oggi sempre più una chimera che da perseguire. È un momento, allora io non vorrei fare l'allarmismo di tutti, perché dico sempre che se ognuno di noi mettesse quella che è la propria goccia d'acqua pulita che ha dentro, e si invece di commuoversi nei discorsi più o meno affascinanti o entrare in paranoie con crisi adolescenziali o adulte che non sempre portano avanti quello che è dentro il cuore di ogni uomo, se tutti cominciassimo a fare qualcosa, io dico con quel termine siciliano, a girarci la camicia, no? Sì. E quindi a dire io realmente cosa posso fare per rendere a colori la mia e la vita degli altri. E allora sono convinto che qualcosa di singolare, di vero si facesse. Prima di tutto sarebbe quello di prendere posto in quella realtà contestuale dove una persona vive, non delegare più gli altri a fare politica, ma ognuno di noi vivere la politica del servizio in maniera proprio onesta, trasparente, singolare, vera, come diceva una Teresa di Calcutta, essere gocce d'acqua pulita. Tante gocce d'acqua pulita, caro mio, riempiono un bicchiere, probabilmente possiamo dissetare qualcuno. La fermo un attimo, professore. Si è gridato a Berlusconi, si grida a Monti, si grida a chiunque, però noi vediamo e ci accorgiamo sempre di più che dobbiamo sposare, caro mio, quella frase di Rita Atria: se vuoi distruggere la mafia, distruggi il mafioso che c'è dentro di te, che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza. Lo dovrebbero capire i politici, lo dovrebbe capire chi li vota, lo dovrebbe capire chi vive la politica. Professore, secondo un suo potere, no? Noi vediamo che, insomma, dalle televisioni, dal Sole 24 Ore, i giornali specializzati nell'economia internazionale, questo spread che si sta facendo mettere sembra un fantasma che aleggia sulle nostre teste, e poi non è altro che un confronto di economie tra quella italiana e quella tedesca, che è punto di riferimento a livello europeo quantomeno. Le cose non vanno certo meglio in nessun'altra parte del mondo, mentre una volta in Italia non c'era lavoro, si poteva immigrare o emigrare, andare all'estero e trovare lavoro in Germania, Francia, eccetera. Oggi è diventata una situazione veramente insostenibile. Allora, al di fuori del fatto che ognuno di noi, come lei giustamente asseriva prima, bisognerebbe che facessimo ognuno la nostra parte di onestà, che è importante, ma per il futuro si parla di già elezioni anticipate anche alla regione siciliana, dove il buon Lombardo, insomma, non è che negli ultimi anni ha fatto chissà che cosa. Allora, di bene. Non lo chiamare buon, chiamo no, dico, lo chiamo buon Lombardo, nel senso lei intenda quello che io voglio intendere, perché è una persona molto, molto accorta, e quindi sa perfettamente che quel buon altro non è che dire avrebbe fatto meglio ad andarsene prima. Io le dico solo una cosa: io il 18 marzo dell'89, e glielo documento con tanto di schede alla mano, ho avuto la gioia di incontrare Paolo Borsellino. E si diceva sempre, dobbiamo sostituire al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà. Mm. Sono passati dopo 4 anni, l'hanno ammazzato, io ho pubblicato il libro Quello che i mafiosi non sanno, dicendo a Carlo Palermo di Stampa di fare la prefazione. Adesso sto portando in giro per l'Italia, attenzione, dico Italia, un progetto formativo culturale che richiama le ambasciate della vita, perché io sono l'idea di una cosa, che la vera Sicilia non è Lombardo, come non è stato Cuffaro, no, come non sono tanti altri, c'è la Sicilia del silenzio, c'è la Sicilia dei bambini, dei giovani, della gente che piange, c'è la Sicilia di chi ha un dolore forte e non ha potuto festeggiare né il Natale né il Capodanno, c'è la Sicilia della gente semplice, c'è la Sicilia delle radio trasparenti e pulite come la tua, no? Che se non ha quello sponsor che affettuosamente gli dà l'opportunità di andare in onda, dobbiamo pure chiudere. Bravo professore. Dico, ci sono situazioni, bravo, professore, realmente vere, persone forti che purtroppo non sempre si riesce a dargli voce. E allora io ti dico solo questo, che dopo alla luce, dopo aver vissuto il famoso strage, aver visto e udito la disperazione di tanta gente che dietro la pala di Paolo diceva è tutto finito, ricordo Caponnetto disse no, non è tutto finito, e Caponnetto, dico nonno Nino, ha coordinato una cosa stupenda, è stato lui a portare avanti e a battezzare il Parlamento della Legalità. Sai che vuol dire essere stato io recentemente a Como, in una comunità di disabili, aver insediato l'ambasciata della solidarietà come Parlamento della Legalità con il prefetto di Como? Sai che vuol dire essere a Roma, dove la prossima settimana alla Ciampino faremo un convegno grande sul tema trasparenza e legalità? Cioè se ne incomincia a parlare anche qui nel cuore di Roma, a Firenze l'ambasciata della giustizia, a Genova l'ambasciata della pace, a Napoli Scampia l'ambasciata del coraggio. E scusa un attimo, e tutto questo non arriva dalla Sicilia? Un Nicola Manino non è siciliano? Il Parlamento non è nato con noi e da noi? Solo che ti dico, ecco, mentre odio, permettimi questo aggettivo, quelli che se la cantano e se la suonano, che fanno sempre antimafia, antimafia, antimafia, ma volemo finire di fare pubblicità carnefici di cosa loro? No, perdonami una battuta, Mannino, io dimentico il tuo nome perché io... Nicola, perdonami una battuta, io ho sempre, tra virgolette, odiato, perché cristianamente, no, essendo un cattolico non posso, e un cristiano non posso odiare nessuno, ci mancherebbe, però mi ha dato fastidio terribilmente il cavalcare la tigre, mi uccidono, no, mio padre, io divento senatore, allora mi uccidono il collega magistrato, io divento deputato, allora questo stato di cose deve finire. Deve, noi abbiamo bisogno di avere al Parlamento gli occhi degli onesti, si apriranno, oh, bravo, e manderanno a governare gente che non si può né comprare né vendere, bravo, gente che sappia piangere, gente che sappia ridere, gente che ti dice guarda io lo sto facendo col Parlamento della Legalità, è la formula vincente, perché non avrei il consenso di vescovi, 5 magistrati, imprenditori, gente che vale, ai quali non chiedo niente, guarda non abbiamo mai chiesto nulla, eppure il conto corrente abbiamo quasi 0 totale soldi, io se devo andare come ho fatto ora per venire a Roma il biglietto me lo sono pagato io, il soggiorno me lo offrono, altrimenti non potrei fare nulla. Però quello che ti dico è avere l'orgoglio di dire noi dalla Sicilia vi portiamo un messaggio di speranza, un messaggio di vita, un messaggio favoloso. Tu pensa che questo progetto che noi abbiamo, le ambasciate della vita, ha il patrocinio del Presidente della Camera dei Deputati, il Ministro degli Interni, il Capo della Polizia, il Presidente dell'Assemblea, aggiungo a titolo gratuito. Ma ci mancherebbe, no, ma io volevo... Però tutto questo. A me fa piacere, credimi, te lo dico affettuosamente, vorrei che anche i nostri radioascoltatori lo sapessero. Mi è fatto piacere ad aprile sentirmi telefonare dal segretario particolare del Presidente della Repubblica dicendo: il professor Vanini, abbiamo fatto le indagini su di lei e sul Parlamento e la legalità. Notizie positive. Dico, sfido io, apro il Presidente del Senato e chiudo il Presidente della Camera, i nostri seminari di studio. Gli mandiamo la medaglia come diritto di rappresentanza. La cosa più bella, sentire Giovanni Tinebra, procuratore che sì, tu sicuramente conosci, dirmi, Nicola, guarda, io aderisco con gioia al Parlamento della Legalità. Caterina Chinnici, che è venuta l'altro giorno a San Cirello, dove c'erano 8 scuole della Valle dello Jato, eppure da Paternò l'abbiamo nominato madrina del Parlamento della Legalità, non perché è assessore di Lombardo, non ce ne frega niente, ma perché è la figlia di Rocco Chinnici, che è stato ucciso, lo ricordiamo, dalla mafia. Tu lo stai facendo, diciamo così, in maniera radiofonica, perché io sono a Roma, tu sei lì in questo momento. Ma intervistato un giornalista, gli disse quel giornalista, dottore Rocco Chinnici, ma lei che glielo fa fare? Lui, contando un bambino che giocava col triciclo, disse lo faccio per lui. Vedi se i nostri radioascoltatori, se tante mamme, tanti papà, tanti docenti, tanti imprenditori, la sera tornassero a casa e invece di pensare a chi devono chiedere raccomandazioni, guardassero negli occhi i propri figli e dire ti voglio lasciare un dono che è incommensurabile, non a prezzo, a dignità. Nicola, hai toccato un aspetto importante. Noi siciliani questa dignità ce l'hanno depauperata nei secoli, tu lo sai meglio di me, con le varie dominazioni. Dovremmo un attimo, io credo, scusami, ti do subito la parola, dovremmo, io credo, ecco, rimboccarci le maniche, guardarci un attimo in faccia e dire: abbiamo tutte quante, con la natura inclusa, le carte in regola per essere un popolo, uno, sano, uno, sano, e non vendibile. Guarda, perché noi non ci vendiamo nessuno. Un pregio, ti riconosco al di là dell'onestà intellettuale, un pregio, hai detto quello che diciamo noi come Parlamento della legalità. Non mi interessa di chi sei figlio, non mi interessa il tuo 740, non mi interessa né il tuo gusto musicale, assolutamente no, che schifo vuoi, ma una cosa mi interessa, che sai fare di bello, prof, so scrivere, facciamo i libri, so cantare, concerti, so disegnare, mostre, so fotografare, potenziamo le qualità naturali dei nostri giovani che fra 5-10 anni, amici miei, andranno a votare. E se hanno trovato chi ha creduto in loro senza l'assistenzialismo diabolico mafioso, capisci cosa ti dico, diabolico mafioso? Beh, dai, ti do un contentino. E se le segreterie politiche la smettessero di essere mangiatoie mafiose, dove si va lì per chiedere raccomandazioni, no? Allora noi avremmo una Sicilia che, come diceva Paolo Borsellino, questa terra sarà bellissima, sarà. Ma purtroppo c'è chi vuole mettere il prosciutto negli occhi, esatto, e parla tanto di rinnovamento, ma forse non riesce a rinnovare manco il suo cuore, a cambiarlo da pietra in umano. Però. Nicola, prima hai sentito forse dare voce a un'iniziativa che noi abbiamo fatto? Noi siamo andati per Natale, dove è stato sciolto nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo. Sì. Tra le porte tra San Giuseppe Ato, Campo Reale, c'erano studenti da diversi comuni, lì dove i carnefici di Cosa Loro hanno sciolto un bambino, hanno portato i bambini da Paternò, provincia di Catania, per l'altro paese dicono del Triangolo della Morte, un Gesù bambino, è stato benedetto dove l'acido ha sciolto un bambino, e quel piccolo Gesù è andato alla comunità di San Giuseppe Iato, e la notte di Natale a San Giuseppe Iato è nato un bambino che arrivava dal Giardino della Memoria. Hai sentito la stampa parlarne? No, ma assolutamente, le cose positive non se ne parla mai. Questo non serve. Allora, però se viene maltrattato un bambino e viene deriso un bambino, o se un altro fa un gesto eclatante, ci danno le prime pagine. Allora l'augurio che io voglio fare a noi è: vogliamo sostituire alle schifose notizie che educano a essere cattivi le belle notizie, dove io, se che sento belle notizie, dico: posso farle pure io. Sono concorde con te, Nicola, ma volevo aggiungere un'ultima nota di colore a tutto questo. Io sono veramente stanco di girare, quando arrivo al nord Italia, a Milano, dove sono stato di recente, sentirmi apostrofato, come dire: ma la vostra regione è così bella, avete il sole, avete il mare, avete le arance, il sapore della zagara, quadri di Van Gogh naturali, l'entroterra delle Madonie. Ma perché voi non riuscite a cambiare la mentalità di questi quattro gatti? Allora, se dicessimo alle TV di Mediaset che a Natale non si può ancora una volta mandare il capo dei capi, capito quello che ti voglio dire? Che non si può fare audience solo col distretto di polizia, ma vogliamo proporre gente che dà la vita per ideali meravigliosi? Vogliamo proporre figure simbolo che non si possono né comprare né vendere? Vogliamo dire che Pio La Torre, Rocco Chinnici, Livatino, che il quale disse una cosa stupenda: quando moriremo non ci sarà chiesto se eravamo credenti, ma se eravamo credibili. Bravo. E come dice Don Tonino Bello, bravo, innanzi ai tribunali della storia, noi possiamo essere, dobbiamo rendere conto dei nostri fatti, però davanti al tribunale di Dio dobbiamo rendere conto dei nostri, Nicola, fatti. Nicola, ti voglio, non so se tu... Non so se tu, no, ma sono d'accordo con te. Io poco fa sentivo dire a te che facevi l'augurio del 2000. Io mi auguro che la gente che ci ascolta possa fare di questo 2012 l'anno dell'azione, non più l'anno del silenzio. Ma sai, c'è troppo dolore ancora in giro, Nicola. L'anno della gioia. Lo so, ma c'è troppo dolore, c'è troppa rabbia per quello che ci hanno portato via. Mi è piaciuto che tu, che sei una persona stupenda, hai detto una frase: finiamo a colori. Io dico, si parla tanto di crisi, ma l'amore non si compra. Ah beh, neanche lo si... Crisi, ma il sorriso non si compra. Lo puoi dare a chiunque. Si parla di crisi, ma la vita non si compra. Lo diceva Teresa di Calcutta: con i soldi tu ti puoi comprare i farmaci, ma non la salute. Ti puoi comprare una casa, ma non la famiglia. Bello questo. Ti puoi comprare sì. un uomo, ma non l'amico. Poi dice Ghida, che è giusta, caro mio, ti puoi comprare il piacere, ma non l'amore. Io ho tanta gente che per Natale si è commossa. Sai quanto mi dà fastidio sapere che per ora sta sciando, mentre c'è chi non può andarsi a comprare un pezzo di pane? Ma non è solo allora dovremmo questo. Educare. Intanto permettimi, non dico di te perché meno male esiste la tua emittente radiofonica. No, l'emittente non è la mia, è di un grande personaggio. Di notizie a colori. E poi educare la gente a parlare, permettimi la battuta, anche con il cuore. Soprattutto dovrebbe parlare col cuore, cosa che da noi non esiste ancora, almeno per, mi auguro per le prossime generazioni, le future generazioni. Ti volevo salutare con questa frase, guarda, l'altro giorno ho avuto il piacere, non so se tu conosci l'azienda Fiasconaro. Oh, perfetto, io sono molto amico dei fratelli, ho avuto qui il pasticcere, quello che gira le Rai, Sky, eccetera, a promuovere i propri prodotti, Nicola, che si chiama come te, ha le stesse idee tue molto chiare, le estrinseca in maniera straordinaria, e mi ha detto una cosa: io sono venuto in radio, vado in Rai, vado ovunque a dire che sono di Castelbuono, delle Madonie, siciliano, per far capire ai giovani che comunque, senza bisogno della politica, si può fare ugualmente una sana impresa. Sì, sicurissimo. E la testimonianza è reale, non è che ha raccontato fandonie. Ci credo. È una cosa che mi ha chiesto. Crederci. La forza di un uomo sta nel credere nella bellezza dei suoi sogni e realizzarli attimo per attimo. Nicola, con questa bella frase ci lasciamo qui. Spero di incontrarti personalmente perché guarda, veramente ne varrebbe la pena. Il regalo del 2012, mi auguro, no? Anche io voglio venire nella tua emittente. Ma io sono molto impegnato. No, ma a parte quello, no, mi riprometto veramente di poter incontrare te insieme a te. Perché no, fare anche un incontro con dei giovani a cui trasmettere le esperienze radiofoniche, le esperienze di giornalisti, l'esperienza umana che io ho raccolto nei miei 53 anni e metterla a disposizione. Sei giovanissimo. Sì, no, guarda, mi manca soltanto il bastone della vecchiaia che è il mio fonico. Che io invece ti voglio dire una cosa, ecco, per sfatare un fatto che dice, abbiamo detto anche belle parole. Sai, l'altro giorno mi ha commosso una cosa, e questo te lo dico perché so che tu andrai a guardarlo subito, perché tu sei una persona valida. Mi ha chiamato un ragazzo, mi ha mandato, dice: Nicola, ti mando gli auguri di Natale. Bene, grazie, sai come li perdono tutti. Sì. Gente che è morta per un anno, risuscita la notte di Natale o per Capodanno, e poi si dimentica. Io dico: ma chi è questo che mi ha detto? Cioè, mi incazzo, scusa l'aggettivo. No, prego. Ma cavolo, ma è possibile che tu ti ricordi di me solo la notte di Capodanno o la notte di Natale, poi ci rivediamo a Pasqua e poi quando? Boh, di nuovo tra un anno. Allora mi ha detto: no, vai su YouTube. Mm-hmm. Che devo vedere su YouTube? Senti, un ragazzo cosa ha fatto? Ha raccolto tutte le foto delle cose belle che abbiamo fatto, belle, a colori. Se tu vai su YouTube, scrivi Nicola Mannino, maestro di vita, vedi me con il Papa Benedetto XVI, mentre gli do un libro, che è vero, è dedicato alla Madonna Maria, Madre della Speranza, Donna di Legalità, gliel'ho dato a San Pietro. Guarda, 8 minuti, ha montato un video che l'orgoglio di essere siciliani, ma che pensiamo a colori. Sai che mi sono commosso, l'ho fatto condividere alle persone che so che mi vogliono bene, ci vogliamo bene, e quindi siccome tu sei uno di questi, no, uno dei primi devo dire, ti invito a vederlo, vai su YouTube, scrive Nicola Mannino, maestro di vita, peraltro il titolo dice quello che vuole, ma non potevo dirgli cambialo, era il desiderio scrivere questo. Ma la cosa più bella è il convolto di una Sicilia. Nicola, io capisco che adesso di cosa loro. Io capisco adesso, e te lo dissi in tempi non sospetti, nel primo approccio radiofonico che abbiamo avuto un anno fa circa, quando tu partecipasti a questa trasmissione. Sì, tu sei un vulcano in eruzione e trasmetti questo tuo entusiasmo, questo tuo colore, che è un rosso fuoco e un giallo molto chiaro. Non ci sono tinte fosche in quello che tu fai, lo fai col cuore, e di questo noi te ne diamo atto e ti ringraziamo. Ma sappi che accanto a Nicola Mannino ci sono tante di quelle persone oneste, fiere di essere siciliani e che vogliono portare non soltanto dentro le mura della nostra amatissima regione, ma al di fuori, oltre Alpe, quelle che sono le nostre peculiarità di uomini seri, capaci, duri se è il caso, ma capaci di amare non soltanto la nostra terra, ma di amare i nostri consimili. Grazie di cuore, e ti auguro di venire presto con me a fare una conferenza in giro per l'Italia. Sono contento di farlo, ti faccio gli auguri. Senti, di buon un abbraccio anno. Grandissimo, te lo mando qua da questa capitale di Roma. Io adoro Roma, dove, quella dove zona non tanto, la zona dove sei in questo momento. Dai, facciamo sognare i nostri radioascoltatori. Ma dall'altare della patria, sì, tutta la scala, no? Fino a giù, fino a Montecitorio, e c'è degli luminari che sono col tricolore, migliaia di lampadine bianco, rosse e verdi che sovrastano. Però voglio dirti una cosa, Nicola. Fino a giù a Piazza del Popolo. Nicola, voglio dirti una cosa. L'orgoglio di essere italiani. Nicola, io prima desidero una cosa invece: essere orgogliosi di essere siciliani della nostra storia. Ma e guarda, poi di essere italiani. Se ti ho detto italiani, sai perché? Perché io ho avuto qui al Ministero della Pubblica Istruzione, ma l'ho visto quando il 23 settembre sono stato al Quirinale per l'inaugurazione dell'anno scolastico con il Presidente della Repubblica, una cosa stupenda. il volto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con la scritta "Due italiani". Bene, con questa bellissima frase ci fermiamo. Nicola, ci sentiremo fuori onda qualche giorno per incontrarci a Palermo e, perché no, fare insieme qualcosa. Certo, mi farebbe un immenso piacere davvero. Certo. Auguroni. Grazie ancora a te e alla tua... E rimanete liberi e rimanete un emittente a colori, perché ne avete pieno diritto di farlo. Noi siamo un arcobaleno, Nicola, siamo un arcobaleno. Okay. Grazie a te, saluti i ragazzi e la tua fondazione. Buon anno. Buon anno a te. Linea alla regia, pausa musicale, poi gli sponsor e poi ci salutiamo. Linea alla regia. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. D'arrivo sono le 13:11 in questo momento, il mio watch, minuto più, minuto meno, e siamo veramente arrivati alla fine. Ma prima di salutarci, due notizie che lasciano un po' basiti, almeno per chi vive in Sicilia e per chi ha problemi con la giustizia. Uno, l'altro invece per chi fa il vigile urbano a Palermo, o anzi no, a parte Nico, scusate, in provincia di Palermo ci sono dei seri problemi, perché pensate, i vigili a piedi, dice di spalla il giornale di Sicilia, le auto non sono assicurate. Una nuova tegola sulla polizia Polizia Municipale dopo il pignoramento di ben 4 mezzi per i debiti del comune di Partinico. Insomma, i debiti non ce l'hanno soltanto i privati, ma come vedete anche gli enti locali cominciano ad avere grossi problemi da questo punto di vista. È scattato addirittura un pignoramento. E invece centrale a lettere cubitali, carcere, virgola, decreto lento in Sicilia, nessuno esce. Sapete che l'esecutivo, quindi il governo, aveva deciso di svuotare un po' le carceri italiane. In Sicilia questo ancora non è stato possibile effettuarlo. C'è anche una polemica tra la polizia e l'esecutivo sui detenuti nelle camere di sicurezza. I braccialetti antievasione con un grosso punto interrogativo costano 5.000 euro ciascuno e ne funzionano solo 8. Quindi pensate in quale situazione anche questi poveri cristi vessano in questo vessano in questo momento i carcerati, insomma, in piena apprensione, ma anche le loro famiglie, che sicuramente non hanno in questo momento particolari situazioni piacevoli. D'altra parte anche la polizia penitenziaria, sentivo l'altro giorno alcuni agenti della polizia penitenziaria, hanno problemi di organico, hanno problemi di lavoro, tant'è vero che negli ultimi tempi anche i telegiornali nazionali hanno dato notizie di impiccagioni, di suicidi da parte dei detenuti, ma anche da parte delle forze dell'ordine, nella fattispecie della polizia penitenziaria, perché ci sono delle carceri dove veramente è insostenibile la convivenza tra i due, non perché non ci sia un equilibrio tra i tutori dell'ordine e i detenuti, ma perché si vive proprio male all'interno delle carceri. Gli stessi agenti di custodia sono dei reclusi anche loro, se vogliamo esaminare bene la situazione. Ci auguriamo che l'esecutivo, con questo Mario Monti, questo dottor Monti, che si pensava potesse realizzare con la bacchetta magica chissà che cose, ci auguriamo, ancora sono pochi mesi, che l'esecutivo, il nuovo esecutivo, è in funzione al posto di Silvio Berlusconi nel suo governo, ma ancora lo spread non scende, ancora l'economia non decolla, il PIL, il prodotto interno lordo, va ancora giù. Ci auguriamo che col nuovo anno, il 2012, possa portar bene, perché sennò veramente ci saranno delle situazioni allucinanti, più di quanto già non se ne vedano in giro, soprattutto nelle grandi metropoli. Detto questo, desideravo ringraziare un'azienda che è leader nel suo settore, stiamo parlando di fotovoltaico, perché pensate, con il fotovoltaico si azzera la vostra bolletta della luce. È un'energia che genera reddito, perché da una parte non vi consente più di pagare la bolletta che vi arriva, perché viene tagliata totalmente, producete voi. Poi in più il prodotto va venduto direttamente all'energia elettrica, va venduta quella prodotta con i pannelli solari, va data all'Enel, la quale ve la paga. Quindi poi c'è l'installazione, il sistema fotovoltaico più efficiente al mondo, dovete montare questo sistema, il sistema Sunpower è l'azienda che garantisce l'installazione per 20 anni, pensate, e si chiama, è una grossa azienda, ricordate questo nome, la Medio Elettra. Allora vi ricordo intanto il numero verde 800111341 per le vostre informazioni, oppure vi recate direttamente all'azienda Medio Elettra, la trovate in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Due aspetti importanti: montate questo sistema che è il Sunpower, il primo in assoluto, il migliore in assoluto, garanzia per 20 anni, installazione per 20 anni, tagliate la vostra bolletta dell'energia elettrica, nel contempo potete vendere energia che i vostri pannelli Sunpower vi producono, grazie alla Media Elettra che controlla a distanza la vostra produzione. Quindi voglio dire, è di tutto riguardo. Ricordate quindi Media Elettra di Badalamenti Angelo e CSAS, via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Anche se le feste tra poco finiranno, domani c'è l'ultima, porta via tutte le feste di Natale, dell'Epifania, bisogna fare un po' di spesa ancora, beh, non ci sono problemi, andate alla cooperativa IACC di Farinella in via Nazionale 60 a Gangi, telefono per le vostre prenotazioni 0921 64 50 44, tutto di produzione propria, dal salame felino al salame cacciatorino, salsiccia asciutta, specchia e pancetta, e poi rollò di vitello, pollo e tacchino, la rista al pistacchio, la rista tirolese, la rista arista all'arancia, che è una chicca, e arista alle mele, insomma sono delle cose, delle novità in assoluto, sempre prodotte dalla cooperativa Farinella, la cooperativa IACC in Gangi, involtini di vitello, involtini di maiale, Filadelfia e pistacchio, poi i formaggi di tutti i tipi, dal caciocavallo, caciocavallo affumicato, che è una, veramente un gusto straordinario, e la ricotta fresca. In ultimo vi aggiungo e salti in bocca spiedini e sofficini, tramezzini e mattonelle, arrosto di tacchino, insomma ragazzi, in queste macellerie trovate veramente tutto quello che necessita per il vostro fabbisogno di carne, ma perché con tracciabilità madonita e di prodotta nella stessa cooperativa della famiglia Farinella in via Nazionale 60 a Gangi. Vi ripeto il numero per fare la vostra prenotazione, oppure vi do prima l'email santifar79@live.it, il numero è 0921 645998, a Gangi in provincia di Palermo. Desideravo salutare il psicologo Palace Hotel, hotel a 4 stelle a Castelbuono, dove c'è un'ampissima terrazza sul tetto, dove d'estate in primavera potete godere le serate stupende al chiaror di luna e sotto le stelle, cenando con la vostra lei o il vostro lui o i vostri amici, a passare un attimo di tempo non più all'insegna del relax, immerso, incastonato come Gemma, proprio tra le montagne della Madonia. Dentro Castelbuono c'è anche il parcheggio, un bar sufficientissimo per i vostri fabbisogni della colazione, ma anche nel pomeriggio per un buon caffè o un dessert, quello che vi serve, ristorante interno, insomma trovate tutto. Ricordate Sigro Palace Hotel a Castelbuono, hotel a 4 stelle. E Dulcis in Fundo, per una sana cena o pranzo all'insegna dei cibi genuini, dovete andare alla Lanterna. La Lanterna lo trovate a Castelbuono, proprio di fronte alla Venere Ciprea dei Quattro Cannoli, non potete sbagliarvi, perché lì vi forniscono veramente, vi portano a tavola roba genuina di tutto riguardo, prodotti nel territorio delle Madonie, come l'olio, come prodotti dell'orto, la pasta fresca, i funghi stagionali di bosco raccolti nelle nostre Madonie, le pietanze base di carne provenienti dai pascoli madoniti. Quindi ragazzi, anche i dolci sono con gli ingredienti fatti proprio come si facevano un tempo le nostre, come facevano un tempo le nostre nonne. La trattoria La Lanterna, gastronomia tipica locale a Castelbuono. Bene, noi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, l'appuntamento per la replica è per domenica prossima dalle 9:30-10 circa in mattinata. Ringrazio Simone Brancato alla parte tecnica, ringrazio voi per essere stati con noi, i nostri ospiti del Brando D'Angelo e il professor Mannino, che sono intervenuti in trasmissione. L'appuntamento da parte mia per la diretta è il prossimo giovedì, stessa ora, stesso programma. Un abbraccio a tutti da Filippo Glorioso, a risentirci. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione.